non c'è dubbio che nell'uso del cellulare, soprattutto nell'uso trasgressivo di questo strumento, i genitori sono fondamentali. Faccio un esempio, noi abbiamo visto che il 40% dei ragazzi, nonostante le direttive ministeriali, tiene acceso il cellulare in classe. Questa percentuale sale all'80% fra i più grandi. Allora, significa che intanto il cellulare acceso in classe significa che loro non sono attenti alle lezioni, quindi c'è evidentemente un danno, un danno verso loro stessi, verso appunto il loro apprendimento, e poi nello stesso tempo c'è anche una trasgressione che viene coltivata in maniera talvolta anche arrogante. Noi vediamo che contro un 80% che tengono il cellulare acceso in classe, ce ne sono molti che ne hanno due o tre di cellulari, e quindi uno magari lo mettono sulla cattedra e l'altro lo tengono con la silenziosità della vibrazione sotto banco, continuando a mandarsi SMS, rispondendo ai messaggini, facendosi passare i compiti e così via di seguito. Ecco, in questa fase i genitori sono fondamentali per quanto riguarda l'educazione, insomma far capire ai ragazzi che se con questo loro atteggiamento non fanno altro che danneggiare se stessi, credo che spetti soprattutto ai genitori, perché la scuola può fare fino a un certo punto, non può certamente andare a frugare nelle tasche dei ragazzi per vedere se hanno il cellulare o no.